il rispetto della proprietà. Disse il profeta Muhammad, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, la proprietà di un uomo può essere usata soltanto con il suo consenso, perciò non commettete ingiustizia. Disse ancora, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, non commettete ingiustizie, poiché l'ingiustizia sarà una coltre di tenebre nel giorno della resurrezione. Non siate avari, poiché l'avarizia ha distrutto quelli che vi hanno preceduto, spingendoli ad uccidersi tra loro e a profanare le cose sacre. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, Allah ama l'uomo che vive in timore e tremore, bastante a se medesimo, e che fa uso ragionevole dei beni di sua proprietà. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, l'uso ragionevole dei beni materiali è metà della provvista. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, la ricchezza non consiste nell'abbondanza dei mezzi materiali, bensì nel sapere accontentarsi. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, Allah si compiace del suo servo che si guadagna la vita lavorando e nega la sua grazia a chi si procura i mezzi per vivere facendosi fare l'elemosina. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, ogni prestito va restituito, ogni debito va pagato, ogni garanzia va onorata. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, commette ingiustizia a chi, avendo la possibilità di pagare un debito, differisce il pagamento. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, l'anima del credente resta intrappolata dal suo debito fino a quando il debito viene pagato. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, Allah concede un posto all'ombra nel giorno del giudizio, dove non ci sarà altra ombra che la sua, a colui che concede respiro al suo debitore o gli rimette il debito. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, non c'è musulmano che paghi il debito di un fratello senza che Allah gli conceda tranquillità nel giorno della resurrezione. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, paga il salario al prestatore d'opera prima che il sudore della sua fronte si sia asciugato. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, lo schiavo dell'oro è maledetto e così pure lo schiavo dell'argento. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, Allah ha maledetto chi commette il furto di un uovo e chi ruba una corda per i quali è comminato il taglio della mano. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, chi vende una cosa difettosa senza avvisare il compratore del difetto, incorre nella collera di Allah e nella maledizione degli angeli. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, col giuramento è possibile ottenere l'aumento dei guadagni nel commercio, ma anche causare la diminuzione delle benedizioni di Allah sopra i medesimi. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, l'usura si compone di 70 parti, la meno ripugnante delle quali equivale al commercio carnale del figlio con sua madre. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, per chi riceve a titolo di interesse anche un solo centesimo, nel testo un solo dirham, l'affare è più grave di 36 fornicazioni. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, Chi ha fatto un prestito non deve accettare regali da chi lo ha ricevuto. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, tempo verrà nel quale tutti si nutriranno con l'usura. E se in quel tempo ci sarà ancora qualcuno che sia capace di non nutrirsi d'usura, sarà certamente asfissiato dalla sua puzza nauseabonda. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, se uno per 40 giorni tiene in magazzino una merce nella speranza di un rialzo del prezzo, lui ha rinunciato ad Allah e Allah ha rinunciato a lui. Disse, colui che fa incetta di roba per speculare è un diavolo. Soffre se Allah abbassa il prezzo e gode quando Allah lo alza. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, Allah danneggerà chi causa un danno e poi non lo ripara. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, l'avidità della ricchezza e del potere sono più devastanti per la religiosità di un uomo di due lupi affamati in un gregge. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, il figlio di Adamo diventa vecchio, ma in lui ci sono due cose che non invecchiano mai, la brama della ricchezza e la speranza di vivere in eterno. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, l'invidia non è lecita, tranne che nei confronti di due persone. Per l'uomo che ha ricevuto la ricchezza e ne spende una parte per la causa di Allah, e l'uomo che dopo aver ricevuto la scienza la mette in pratica e la insegna. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, chi si impossessa ingiustamente di un pezzo di terra, nel giorno della resurrezione sarà sepolto sotto sette terre. Disse, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, Allah vi ha proibito di disobbedire alle vostre madri, di seppellire vive le bambine, di rifiutare un dono, e detesta i pettegolezzi, l'insistenza nel far domande e lo sperpero dei vostri beni.